Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla 21esima puntata del Pinsimonio. Questo giovedì andiamo ad approfondire alcune parole lette sui quotidiani di questi ultimi giorni, che sono sclerotizzare, inferenza, illazione, congettura e ipotesi. Cominciamo con sclerotizzare, che in medicina indica il provocare sclerosi, il rendere sclerotico, o in senso figurato irrigidire, rendere inerte, inefficace, perdere elasticità e capacità di adattamento a situazioni nuove, provvedimenti tali da sclerotizzare il sistema economico del paese o il partito si è sclerotizzato. Andiamo avanti con inferenza, che nel linguaggio filosofico indica ogni forma di ragionamento con cui si dimostri illogico conseguire di una verità da un'altra, sinonimo quindi di illazione. In statistica invece inferenza indica il procedimento di deduzione delle caratteristiche di una popolazione a partire da una rilevazione effettuata su un campione limitato di essa, per mezzo della stima dei parametri o attraverso il controllo delle ipotesi. Quindi una verità, logica conseguenza di un'altra. Questa è l'inferenza. Invece l'illazione è l'inferire argomentando, il processo mentale con cui da una premessa si trae una conseguenza logica. Più comunemente l'illazione è il giudizio stesso che si inferisce per deduzione, sinonimo anche di congettura che nell'uso comune si intende per lo più con una connotazione negativa. Infatti congettura significa supposizione o giudizio fondato su indizi o apparenze probabili, fare congetture, arrischiare o azzardare. In particolare nella critica testuale, la ricostruzione ipotetica della lezione originaria o la correzione di un errore o di un'anomalia presumibilmente non voluta dall'autore, laddove la tradizione manoscritta o a stampa non suggerisce un testo accettabile. Quindi la congettura appunto è un giudizio fondato su un indizio, quindi non sicuro. Concludiamo con ipotesi, che è innanzitutto una supposizione di fatti o situazioni ancora non realizzati, ma che si prevedono come possibili e si ammettono come eventuali allo scopo di considerarne in anticipo le conseguenze e di prepararsi, qualora fosse il caso, ad affrontarle. Altrimenti l'ipotesi è una spiegazione logica, fondata su indizi e congetture, che si dà provvisoriamente di un fatto o di una serie di fatti, noti o accettabili in sé, ma non nelle loro cause o nei loro processi. Con significato affine si usa per indicare proposte, e talora prospettive, che vengono accolte come provvisoriamente valide, in attesa di verificarne, attraverso la ricerca, l'effettiva validità, come fare un'ipotesi di sviluppo di un settore economico. Concludiamo così questa puntata del Pinsimonio, io vi auguro un buon proseguimento con Radio Zanardi e vi aspetto martedì prossimo sempre alle 9. Buona giornata! Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata! Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.